orgogliosi del proprio patrimonio musicale. È una band di 7 elementi che suona un funk, possiamo definirlo sì, un funk indigeno, con esibizioni dal vivo veramente ad alta energia. E sono considerati un po' gli eredi di Philip Malombo, Tebane Batsumi, in quanto cercano di dare una voce contemporanea alle tradizioni delle popolazioni indigene, quindi si rifanno anche ai suoni jazz degli anni 70, di cui proprio due trasmissioni fa abbiamo parlato, e delle produzioni degli anni 80, anche se chiaramente essendo una musica degli anni 2010 le influenze hip hop da un punto di vista musicale e punk rock da un punto di vista dell'energia che ci mettono nei concerti sono presenti. Il loro album, perché è uscito solo un album per ora, è uscito l'anno scorso nel 2017, si intitola Emma Cosini, e si rivolge, fa parlare la dura realtà dei senza voce, in particolare la difficile situazione dei lavoratori più poveri. E quindi appunto i Bukuka attingono al mondo spirituale degli antenati da cui sono ispirati. La volontà dei Bukuk, come loro stessi hanno sottolineato, è quella di guardare in faccia ai problemi sociali e di identità, e ha già portato alla messa al bando di una canzone del loro EP, del loro extended play, che tra l'altro, e questo va sottolineato, è autoprodotto. E il primo pezzo, perché sono due i pezzi che vi facciamo sentire, il primo pezzo si intitola Nobody Knows. Nako e santsang re gola nne re bapala Boys and Girls re mixana re bapala di-game tshwana le dibeke dimabo le topo re tshwara le magundwane dimbeba le dinonyane le maqoqo ne re batla le tšhelete ya dikankrapo ka mo mochineng ka anee mokanga makgone mokanga mokgole mokanga lapana langapile lapanga tlhakatlhakanepa A proposito di Eni, cui processo sta continuando a Milano, e anzi per quelli che avevano scelto il rito abbreviato c'è già stata la condanna, un'inchiesta di una ONG britannica accusa la società petrolifera francese Total e italiana Eni di non aver rotto abbastanza presto i legami con la controversa società locale Continent Congo, della Repubblica del Congo, appunto. Nel 2015 Eni e Total, su richiesta delle autorità congolesi, cedettero una parte della loro concessione di sfruttamento petrolifero a Continent Congo, compagnia che apparteneva all'uomo d'affari portoghese José Veiga e al camerunense Yahya Moussa, entrambi vicini al presidente Denis Sassou Nguesso. A quel tempo la stampa portoghese iniziò a indagare su José Veiga, sospettato di corruzione e riciclaggio di denaro sporco. Ma mentre Total ha riconosciuto di essere consapevole dei potenziali rischi associati ai suoi partner, Eni persiste nell'affermare che non ci sono problemi. La società italiana possiede inoltre ancora un giacimento petrolifero con Continent Congo. Non è la prima volta che gli interessi di Eni in Congo, dove opera da circa mezzo secolo estraendo petrolio, gas naturale e sabbie bituminose, e i suoi affari con società legate al potere finiscono nel mirino. E appunto un altro pezzo, come abbiamo detto precedentemente, dei Bukuk, Bantu continua Euro Consciousness, il pezzo in questo caso si intitola Hindi. There was music with drums and everything, and then these cats came through. They called themselves BCUC. They came with a brand new style and a brand new swag from the woods, y'all. Attack, attack, attack, attack, attack, attack. Nice, nice, nice. go piko so bukwe not yet to uru after wutini kotuge mari gabi matara makoko piko so bukwe not yet to uru after wutini kotuge mari gabi matara makoko piko so bukwe not yet to uru after wutini kotuge mari gabi matara makoko piko so bukwe not yet to uru after wutini kotuge re tiwe ho ba mona ubi nari bi Koko piko so bukwe, not yet to huru after wutini kotuge. Mari gabi matara makoko piko so bukwe, not yet to huru after wutini kotuge. Mari gabi matara makoko piko so bukwe, not yet to huru after wutini kotuge. Mari gabi matara makoko piko so bukwe, not yet to huru after wutini kotuge. Un episodio sconosciuto o molto poco conosciuto della seconda guerra mondiale è il massacro di Thiaure, e cioè l'ammutinamento e il successivo assassinio di un numero tuttora indefinito di soldati senegalesi fucilati dalle forze francesi nel quale esercito militavano nella notte tra il 30 novembre e il 1 dicembre 1944. Erano coscritti nelle unità di tirailleurs senegalese e si ammutinarono tra le pessime condizioni e la revoca delle retribuzioni nel campo di Thiaure, appunto alla periferia di Dakar in Senegal. Il contesto è che i tirailleurs non avrebbero ricevuto le stesse pensioni dei loro commilitoni francesi nonostante gli fossero state promesse all'inizio della guerra. Questa discriminazione portò a un ammutinamento di circa 1300 soldati senegalesi nel campo di Thiaure, appunto il 30 novembre 1944. Questi soldati, tra l'altro, erano ex prigionieri di guerra, cioè prigionieri dei tedeschi, che erano stati liberati, che erano stati rimpatriati in Africa occidentale e trasferiti in un campo in attesa di dismissione. E quindi manifestavano contro l'incapacità delle autorità francesi di pagare gli arretrati salariali, le indennità di guerra e le pensioni misere o molto più basse nel futuro rispetto a quelle che sarebbero state percepite dai soldati francesi. La mattina, appunto, dopo che ci fu queste proteste e questa sorta di ammutinamento, i soldati francesi a guardia del campo aprirono il fuoco, uccidendone un numero tuttora imprecisato che va dai 35 ai 70 soldati. Un dettagliato resoconto in lingua francese del massacro afferma che tra l'altro 24 degli ex prigionieri furono uccisi immediatamente e 11 morirono successivamente a causa delle loro ferite. Il governo provvisorio di Charles de Gaulle, preoccupato per l'impatto di questo massacro, agì rapidamente per insabbiare l'inchiesta. Nel marzo, tra l'altro nel marzo del 1945, un tribunale militare sempre francese condannò i sopravvissuti a 10 anni di carcere. Tra l'altro l'autore e il regista senegalese Ousmane Sembene ha diretto un film che appunto si intitola Camp de Thiaoré, documentando gli eventi che hanno portato a questo massacro, nonché il massacro stesso. Il film è considerato una fiction storia, in quanto i personaggi non sono necessariamente basati sui reali soldati senegalesi che furono uccisi. Il film ha ricevuto delle recensioni positivissime al momento del suo rilascio e continua a essere utilizzato dagli storici come una documentazione importante del massacro. Il film, tra l'altro, è stato bandito in Francia per oltre un decennio. Il prossimo gruppo è Darajei, che significa la scuola in Wolof. È un duetto rap senegalese composto da Ndondo, Di e Fada Freddy. La loro musica si ispira all'hip hop, ai ritmi afro-cubani e al reggae. È parlata in francese, inglese e Wolof. Questo duetto si è costituito nel 97 ed è diventato subito popolare in Senegal in seguito all'uscita del loro primo album su cassetta. Seguirono nel 99 con una registrazione più a tema politico Xalima, che integrò numerose idee e strumenti musicali dal Senegal e altri paesi africani. Boomerang, il loro album del 2003, è stato acclamato dalla critica e favorisce la combinazione di influenze musicali delle precedenti due registrazioni. L'attivismo politico è un aspetto importante nella filosofia del gruppo sin dalla sua fondazione. Come molti altri gruppi hip hop africani, Darajei ha da subito un atteggiamento politico da attivisti. Il gruppo è particolarmente impegnato a dare una visione dell'Africa reale che si basa sui problemi di oggi. Uno dei due componenti ha anche sottolineato l'importanza di comprendere la vita nel continente. Oggigiorno le persone tendono a mostrare la parte negativa dell'Africa, ma l'Africa non riguarda solo l'AIDS, l'angoscia, la corruzione. L'Africa ha molto da offrire. Di loro ci ascoltiamo Yalla. Similaire. Munuma tit munuma we filek magi wetel ki masak borom bi moñu sargal bani adam ak hawma wat ki ñak su jom baak yaa rasulillah yamul morom di ñak sama ciir ak sama ru borom bi mom mom dana ko sargal dana ko sukkal dana ko ramal bis bu nek mom ma jurom eske ak sa joxel asaka ki meskin master ta alifunu ba unta unta un matamali taya jublu makatul makka jeggi safak marwa lepp leer tak masak sam sam cango ma nopi nan sharu ramadan madan li wette wor tamari taya jublu ci aya aya Yalla, my name is Fit. Do my down if fit, do my tit. Some fit line and hit, but when I get more, be a light. Some get one, two, three. When I was younger, I used to look to all the sky. To see if I don't have a glitter of a rope. And look down with relief under my feet to see if. And no hell below. So the more you grow, the more you learn. Life is a permanent fight, and knowledge permits to earn it. Why? Burn him, who the devil? We deserve a return. Why? He's your enemy number one. If it could not be done, my son, you better take a run. Cause it's who we must put a fight together. Do not say, hey, hey, you know. You're not gonna deal with the dirty. If you wanna apologize, hey, you better do it early. The rivers of evil switch out like wildfire. The devil's army strikes along with that retire. But the few souls get higher and higher. Holding in check, wisdom with two horns and pointed net. It's enough to brighten up my story and a tale. Cause who God bless, yes, no man attest. Who God bless? No, no man attest. Who God bless? We can talk, no, no, no. Do my deed, to do my weight. Feel like my gear is talking my sock. Do my deed, to wait, to wait. Feel like my gear is talking my sock. Lakunan, do my jahum, jelaka jahum. Sama khalengi sepa sepa, sama gaming. Tay my yabili, masak nandal, flipa kaba, jisama dek. Masalin taf, chukul sech, do my fil itam, sama daru dek. Kepa kepa, kumajali, nanyan boko, ey, dagan, chubur biyala, lel pay. Muman na jubal, sinipligay. Allah Taala man khalima jiko habla far dangal aisar mane ar dangal sedire mane ar moy ya ci mar moy sama ko mar ila mane ar ci njabar yow mi jël xanj lu bon nga sacc fexe ba sank nit ki yalla sacc nga jël ko fa sax wul sagam dar koy fa xamay ba far sax bobu ak ba ci say nak dana la tak lu je ndax xayay ndak tay ma xey lax tay la xasu fa xasu xas xel gu reey gi ci dug ko ker gi hip hop ak sa ziar na len god is almighty. God is one. God alone. God is one, one alone. Don't try to deny it. Yeah, look at the God is one. Almighty. Even the mountains are bowing to the glory of the Almighty One. God is one. Yeah, look at the God is one. God is one. Escape, escape, escape, escape, escape, escape. Mon attaque, mon massacre, mon new sack, mon ensac, tu big bang, souffle de banjo, ben, fan, jarra, lac, mat, new bag, n'est gros, cala, fiang, y fin, n'est nac, bon, hamadou, fang, et double, d'elle, tu kenne, qui la hâte, hâte, fang, et l'écoule, hâte, bâle, d'un gir, copper, l'aïna, ma jihad, tout n'a, ça m'a bakar, gagne, ma colin, goliad, tout n'a, ça m'a bakar, gagne, d'aklin, shaitan, d'un matahanan, kiss, rebre, ma ti, iblis, kes, kes, boum, fidèle, kara, yom, al, khiam, d'un homme, le reste, yom, al, khiam, d'un homme, le reste, an, yam, focus, and, d'un, wah, n'y, yom, Vi ricordo che dal sito wombat.noblogs.org, oltre ad ascoltare lo streaming della radio, potete anche riascoltare o scaricare e ascoltare successivamente tutti i podcast delle trasmissioni. Andate in alto nel menu podcast e poi scegliete la trasmissione che preferite ascoltare in quel momento. E vi ricordo anche che Uru è in diretta alle 21.30 circa del venerdì e la replica invece è alle 23 della domenica e alle 8.30 del mattino di lunedì. E rimaniamo lo stesso genere musicale, il rap, in questo caso sono gli Oaga All Stars. Oaga è l'abbreviazione del nome della capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, e questo è un pezzo che fa parte della colonna sonora di un film che si intitola Fang Africa, la voce dei senza voce, ed è appunto un film, un documentario che parla appunto della scena rap africana e che quindi all'interno della colonna sonora vede la partecipazione di un numero abbastanza elevato, sono circa 15 i gruppi rap presenti nella colonna sonora, e gli Ouagadougou All Stars sono appunto 5 dei rapper più popolari di Ouagadougou, e che appunto questo pezzo ha come titolo il titolo del documentario La voce dei senza voce. Durante la lavorazione, l'incisione della colonna sonora e quindi di questo pezzo, gli Ouagadougou All Stars hanno anche inciso un altro pezzo che si intitola Na Wiji Por Sankara, una candela per Sankara, giusto per far capire appunto l'interesse e la partecipazione attiva militante alle iniziative per una migliore qualità della vita appunto in Burkina Faso. I componenti sono Mr. Clean, Dujuni, David Le Combattante, Golgo 13 e il primo Smart. Il pezzo appunto è La Voce Senza Voce, Voix de Sans Voix. Yeah, yeah, yeah. C'est Waka All Star. Again, again, again, ça vient de Ouagadougou. J'ai juste 16 mesures, 16 ans pour t'expliquer. Qu'à 16 ans, valise en main, je suis arrivé sans un franc. Juste une famille qui m'aimait sous un soleil haut. Comme chez vous chaque été ou en première, j'ai dégusté un porc au rabilé. Subjugué par le sourire des nice bébé. Hi, c'était, n'hésite pas, t'es invité à venir voir. Comment les jeunes ont l'attitude respectable. Comment le move a une allure agréable. Où l'on trouve un peu de tout. Des vrais, des vrais, des vrais, des nerfs et de faux gars. Où j'espère que sur ton passe, y'a le visa du Faso. Chez nous les étrangers ont l'air de Neyi Bogo. Aïe. Comme Yawin Boulou, comme Tonte Sabo. Kenge Marka. Quelqu'un gâte, bordou, rapa, ropa, non, a naïka, crepa. MC Pakoti, gousse, gâte, rapa, non, a yida, peka. Car microphone, a nous, sura, teka. Yaf, arjeka, fim, teka. Rinten, qui tout vient, comme frère, mika. Ma pare, burkin, rapa, le bra, bourré. Ouyou, boura, ya, obdien, tout, gayour, tiens, boure. Mandoula, ta fille, le combattant. Eke, épice, malcom, rap, d'amouré. Chaque chose a son temps et chaque chant a son temps. Chaque show a son temps et chaque chien a son thème. T'étonne pas qu'au pays de l'oncle Sam, on parle aujourd'hui du pays de Tom Song. La langue française, je l'ai apprise à l'école. Et c'est sur Trace TV que j'ai connu école. Cette voix ira jusqu'en Corée. Et c'est sur ce beat vous allez apprendre le moré. Le ini, le ii, P-E-O-P-O et que Ogo. Si t'arrives chez moi au Faso, n'oublie pas qu'on dit. Mais avant de m'en rester calme, comment rester calme pour ne pas être crâne. Waga All Star, c'est Smarty, Golgo, El Primo, David et Doudenji. Aux yeux je roue mec, plein Gérard mec qui assure en rap sec. Respecte ma tech, j'distille des rimes d'attaque. Un flow high tech avec du tac, tout en gardant mon éthique. T'inquiète, avec les fakes, pas de contact. Équipe trop compacte, avec le son, on a fait un pack de sang. J'avance avec ma team, à l'aise dans mes grands baggy jeans. J'fais mes jays et mon style, fais des victimes. Stress et freestyle, c'est mon quotidien. Hip hop, prophétie, écoute bien, MC de profession. J'confectionne des lyrics avec affection, avec passion. Si je délire alors je risque l'infection. J'sélectionne, envoyer les consonnes. Pour ça t'consume du vos cerveaux ménage. Pour mon sang cogne, sous le blazer, un black vénère. Au BC mon blaze, j'représente Golgo 13. Il 6 dicembre 2018 è stato inaugurato a Dakar il Museo delle Civiltà Nere, tra i più grandi al mondo legati all'Africa e alla sua diaspora. Sono presenti nel museo mostre che uniscono tradizione e modernità, tributi agli antenati, ai grandi personaggi delle civiltà nere, della diaspora, da Martin Luther King a Thomas Sankara, ai soldati frontalieri senegalesi, alcuni dei quali, come abbiamo detto precedentemente, furono massacrati dai francesi, e a mostre di artisti dal Mali al Burkina Faso, dal Brasile, tutta la civiltà nera mondiale è raccolta come auspicio in questo museo. Il museo, come ha sostenuto il direttore Amadi Bokoum, non vuole essere un monumento collaborativo, ma un laboratorio creativo che aiuti a formare il senso di identità di un continente. Un'istituzione che si spera possa sostenere le nazioni meno ricche ospitando la loro arte. Non possiamo essere prigionieri di ciò che non abbiamo, ha rivelato Bokoum a Le Monde nel 2016, quando gli venne fatto notare che il 90% del patrimonio culturale africano è nei musei all'estero. Bokoum però si è rimesso al lavoro subito, ma per cercare di recuperare almeno una parte di questo patrimonio culturale che è all'estero. E l'altro dei due musei invece di cui che sono stati riaperti, il secondo è a Bruxelles ed è sempre sull'arte africana, ha circa 180.000 opere che seguono tutta la storia africana e praticamente sono il risultato della predatoria attività di Re Leopoldo del Belgio, che vi ricordo era il proprietario del Congo, lui personalmente, e che ha rubato tutto quello che poteva rubare da quel paese e dalle nazioni accanto. Tant'è che, visto che la Francia ha fatto dei timidi tentativi di restituire qualche opera, specialmente al Benin, e infatti 24 opere sono state restituite, 24 delle tantissime che hanno, ma insomma 24 sono state restituite, quando gli è stato chiesto al museo di Bruxelles se avessero questa intenzione, loro hanno detto un secco no comment, e addirittura il ministro dell'arte francese ha già cominciato subito a fare marcia indietro su questa ipotesi di restituire all'Africa l'arte, dicendo che loro intendevano più non come restituire, ma una partnership per cui a volte possono dare delle opere in prestito, che però poi devono ritornare a loro, perché solo loro sanno come si tengono. Dal rap al reggae, un Kule Diouf, la figlia di Lucky Diouf, uno dei più popolari, se non il più popolare cantante reggae africano, assassinato nella township in cui viveva, assassinato in circostanze tuttora non chiarite, ma che molti, in particolar modo gli abitanti della township in cui viveva, sostengono direttamente legate al suo attivismo politico. Kule Diouf porta avanti l'attivismo, il lascito di Lucky Diouf, da un lato interpretando durante i concerti dal vivo alcuni dei suoi pezzi, concerti dal vivo che sono la caratteristica di Kule Diouf, ma anche incidendo l'ultimo album che è proprio uscito da pochissimo, da alcune settimane, si intitola The Journey, e da cui appunto ci ascoltiamo I Am Woman, la sua rivendicazione come donna. Cry as I am. days to make it work. For you, for us, and not for me. No, no. The one that gave you all our strength and more, and still have more to give. I am grace, the calm within the storm. That give life to all the nations, bringing them love and joy. I am grace, life within your soul. I embrace life with all its flaws. Cause I am the reason why you smile. Yes, I am the reason why you cry. Yes, I am the reason that you are. Yes, adesso a Mayra Andrade. Suo padre aveva combattuto per l'indipendenza di Capo Verde, la causa sostenuta anche da Cuba, in cui appunto lei nasce a La Habana nel 1985. Trascorre la sua infanzia a Praia, appunto a Capo Verde, poi segue la madre e il patrigno, che sono ambedue diplomatici, in Senegal, Angola e Germania. Quando torna a Capo Verde, a 14 anni, inizia la sua carriera, diciamo, di cantante. Come Cesaria Evora ha fatto conoscere al mondo il nome del suo paese e i ritmi dell'isola di São Vicente, Mayra Andrade viene dall'isola di Santiago, dove gli stili musicali sono più percussivi, ritmici e africani. come i funanà e i bazook, generi vietati dall'elite coloniale portoghese e quindi mai diffusi nel mondo. Mayra Andrade canta e scrive in quattro lingue e mezzo, come dice lei, cioè creolo capoverdiano, portoghese, spagnolo, francese e il mezzo che è l'inglese. Appartiene a una generazione che è fortemente attaccata alla sua identità capoverdiana. Di lei ci ascoltiamo una canzone che ha dedicato appunto alla sua isola, Isla de Santiago, Mayra Andrade. De Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco rodapião. Na Ilha de Santiago tem um monumento e tem cacá, e nasce a gominha Zezé, o Raul é de fundo do beira da barca. Na Ilha de Santiago tem um monumento e tem cacá, e nasce a gominha Zezé, o Raul é de fundo do beira da barca. Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, Ilha de Santiago tem corpinho de algodão, saia de chita com cordão, par de brinco roda pião. Na Ilha de Santiago tem caetaninho, tem cordeiro, ringue pano novo, unha vivinha lá de fundo por ali de baixo. Na Ilha de Santiago tem caetaninho, tem cordeiro, ringue pano novo, unha vivinha lá de fundo por ali de baixo. sì, la protesta dei gilet jaunes, dei gilet gialli, dei giubbotti gialli in Francia spaventa l'elite al potere in Egitto e in Tunisia. Le autorità egiziane hanno limitato la vendita dei giubbotti riflettenti gialli in vista dell'anniversario della rivolta iniziata nel gennaio 2011 che rovesciò il presidente, l'allora presidente. A riferire il quotidiano The Guardian, secondo il quale funzionari di sicurezza e venditori di attrezzature per la sicurezza industriale hanno detto di aver ricevuto istruzioni di non vendere gilet gialli a singoli cittadini. Nello stesso momento in Tunisia sono stati sequestrati 50.000 gilet rossi, perché tra l'altro il rosso è il colore simbolo della Tunisia, e in Tunisia vengono appunto utilizzati i gilet rossi per quando una macchina è ferma, insomma, o per farsi per riconoscimento, e appunto in questo caso sono stati sequestrati 50.000 gilet sequestrati dalle unità di sicurezza tunisine, questo numero considerevolissimo di gilet rossi della città di Sfax, dopo che informazioni erano riservate, erano giunte alla polizia stessa, che sosteneva le informazioni sarebbero state destinate a essere distribuite in occasione di eventuali proteste popolari previste per il prossimo gennaio. Sono stati importati legalmente e con una procedura autorizzata dalle autorità doganali, e quindi non si capisce, da un punto di vista formale non c'è nessun motivo valido per il sequestro. C'è un motivo valido da un punto di vista politico, proprio appunto per evitare o comunque privare di uno strumento le eventuali proteste popolari. C'è da considerare che appunto la situazione sociale in Tunisia è sempre più tesa, dopo che sono stati traditi le rivendicazioni della rivoluzione del 2011, che richiedeva maggiore dignità e occupazione, e con gli insegnanti scesi in piazza negli ultimi giorni a protestare per migliori condizioni economiche ed altre categorie che si stanno organizzando per manifestare contro gli articoli della finanziaria del 2019. Le Filles de l'Agadad, una band di musiciste femminili Tuareg originarie del Niger. Le tre giovani donne, guidate dalla cantante e chitarrista Fatou Seydé Gali, provengono dal piccolo villaggio di l'Agadad, che comprende una manciata di case e una scuola raccolte intorno a un pozzo nel cuore del deserto del Sahara. In questa ristretta comunità Tuareg la vita scorre tranquilla secondo le stagioni, quasi immutata nel corso del tempo. Nelle occasioni di festa sono sempre le donne a esibirsi nelle tende. Una musica tradizionale fatta di battiti di mani, tamburi, i tende appunto realizzate in pelle di capra allungata e pestata, e voci femminili, che rappresenta la base del repertorio delle Filles de l'Agadad. Il gruppo di Fatou Seydé, musicista autodidatta fin da bambina, ci offre canti di vita quotidiana che si mescolano al blues del deserto, alle chitarre rock e alla potenza elettrica, recuperando non solo i caratteristici tamburi tradizionali ma anche altri strumenti acustici e altre percussioni, come la calabash, a differenza per esempio di quanto proposto da altri artisti Tuareg. Il nuovo album, registrato durante il primo breve tour europeo del trio, che tra l'altro ha fatto tappa anche qui a Firenze in estate, dove hanno fatto un concerto veramente bellino, si intitola Egas Malan e mantiene intatta tutta la spontaneità dell'ispirazione e della performance discreta e minimale che le contraddistingue. Pochi elementi fondamentali, ipnotici riff di chitarra, strutture, ritme coinvolgenti e armonie vocali. e questo insieme riesce a creare un suono veramente originale. Il pezzo si chiama Tilele. Thank you. Sono a Giobarte è invece gambiana, pur essendo nata in Inghilterra, e fa parte di una delle cinque principali famiglie di suonatori di cora e griot, e ha la particolarità di essere stata la prima suonatrice di cora su un palcoscenico. Ha iniziato infatti a suonarla già all'età di 4 anni in un caffè di Londra, e poi successivamente dall'età di 15-16 anni ha iniziato a incidere. Tra l'altro, una delle altre sue particolarità è che molto spesso incide o chiama a partecipare ai suoi brani altre artiste, altre cantanti africane, come per esempio Omu Sangaré. E tra l'altro ha composto la colonna sonora di un documentario intitolato Motherland, incentrato appunto sull'Africa. È importante questa composizione, questa colonna sonora, perché è proprio in queste composizioni che Sona Jobarte inizia un'innovativa esplorazione dei suoni africani. E suona gli strumenti in un modo anche diverso rispetto a quella che è la tradizione in modo di suonarlo, e per esempio suona la cora, questo strumento, questa specie di chitarra a 21 corde, con una scala musicale arabica. Utilizza anche la chitarra per emulare il suono del liuto africano, e così come la voce la utilizza come griot, però in una forma più musicale, meno parlata. Pur essendo nata in Inghilterra e avendo girato e avendo abitato in diversi paesi, si identifica in tutto con la cultura africana, e attualmente vive un po' in Inghilterra e un po' in Gambia. Il pezzo che vi facciamo ascoltare si intitola Jarabi. No. fama mana ye na ye una ye sama fama ya rabbi tuna ye fama mana ye ya rabbi tuna ye fama ru Questo era l'ultimo pezzo per stasera. Vi ricordo che questa è l'ultima puntata in diretta di Uru del 2018. La prossima settimana infatti manderemo una replica, quindi ci saremo comunque anche se in registrata. Ci vediamo nel 2019 sempre con la musica africana e sempre con le notizie dal continente africano. Ciao a tutti e tutti. Ciao ciao. Zia Tabu Latina. Zia Tabu Latina. Zia Tabu Latina. Zia Tabu Latina. Oh Ethiopia. Oh Uganda. Oh Kenya. Oh Tanzania. Oh Ghana. Oh Nigeria. Zia Tabu Latina. Zia Tabu Latina. Zia Tabu Latina, Zia Tabu Latina, Zia Tabu Latina.